Pronto? Caro Tito, ti ricordi sì, di sabato? Ciao. Il nostro appuntamento? Quindi è sabato che facciamo questa cosa? Sabato naturalmente, come sempre, dalle 14 alle 15. Dalle 14 alle 15, va bene? Va bene? Alle 14. D'accordo, ciao. Ciao, grazie. Bene, allora, Tito Boeri, economista e docente all'Università Bocconi di Milano, c'è, lo avete sentito, per commentare le notizie di questa settimana. Io, Roberta Giordano, ovviamente ci sono, Sava Sandir, e siateci naturalmente anche voi, a Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.